Casa dove vivo ora è casa di mia nonna. Una casa lasciata vuota in quanto prima era un ufficio, è stato casa di mia nonna, ufficio e adesso è casa mia. E era vuota e completamente spoglia di tutto. Io che ho fatto? Io con mia moglie che abbiamo fatto? Abbiamo preso dei mobili molto vecchi di casa di mia zia che è finita a mio fratello e voleva buttare questi mobili. Li abbiamo portati da un designer che li ha ritoccati tutti e li ha fatti praticamente nuovi, seguendo uno stile più moderno. E li abbiamo messi in composizione con altri mobili postmoderni o moderni. E abbiamo creato uno stile alla casa, valorizzando la casa, valorizzando quello che era per me un bene di mia nonna, un bene che io so essere della mia famiglia da generazioni. E abbiamo valorizzato anche la casa stessa perché abbiamo rifatto il terrazzo, abbiamo rifatto vari spunti strutturali proprio della casa. Abbiamo salvato le cementine, che è un tipo di pavimento molto bello che era già montato in casa. E allora il riprendere, il ritornare alle origini, valorizzare sia dal punto di vista personale, valorizzare sia dal punto di vista oggettivo, perché la casa ha assunto sicuramente più valore con le nuove modifiche che abbiamo fatto, mi pare che sia un'espressione perfetta del valorizzare un bene o una parte di cuore che è appunto la casa di mia nonna.